Signore e signori, qui a Rock FM sono le 7:30 minuti spaccati! Venghino, signori, venghino! Serviamo la colazione di Rock FM, pane, burro e rock and roll! Mister Trombetta, non ti avevo ancora salutato. In tanti, ogni giorno sempre di più al 335-100-7777, il nostro numero di SMS. Ne saluto qualcuno. Il primo messaggio che ricevo recitava così: inizio a lavorare alle 22 di questa sera. È normale svegliarsi all'alba per un programma radiofonico per scoppiati? Esigo una risposta. Normale, normale, no. Però, come hai notato anche tu, visto che anche noi normali, normali non lo siamo, benvenuto! Siamo tutti omini tanto speciali! Un abbraccio caloroso a un nuovo gruppo d'ascolto! Però guarda che sono stupido, Spadino, dovrei segnarmeli tutti i gruppi d'ascolto, perché alcuni sono fenomenali. Posso lanciare un appello per fondare il gruppo d'ascolto Donne Falegname che vanno al lavoro? Ovviamente dopo aver sceso il cane. Buona giornata a tutti e grazie della compagnia Sere da Firenze. L'hai già fondato, Sere? Oh, siamo in tantissimi, ragazzi. Potremmo organizzarci e fare delle liste civiche. O anche no, anche no. Allora, il numero di SMS, ve l'ho ricordato. L'ultimo saluto a un classico dell'interazione mattutina. Abbiamo il nostro rocker napoletano di riferimento, da Napoli ogni santo giorno. Non abbiamo ancora ben intuito come faccia e non ci interessa, Gianfranco, l'importante è che tu ascolti. E da Napoli oggi ci scrive: qui invece, perché dicevamo che oggi pioveva, a Adume c'è sta o sole, nubello tracu tracu a te e o friccanton, e a tutte belle ciaccare che ascoltano Rock FM. Ciaccare. Bella Gianfranco. Alice Cooper. Yeah. The telephone is ringing. Drin drin. You got me on the run. I'm driving in my car now. Anticipating fun. I'm driving right up to you, babe. I guess that you couldn't see, yeah, yeah. But you were under my wheels, honey. Why don't you let me be? Cause when you call me on the telephone, say, take me to the show. And then I said, honey, I just can't go. Old lady's sick and I can't leave her home. Telephone is ringing. You got me on the run. I'm driving in my car now. I got you under my wheels. I got you under my got you under my wheels, Sally Cooper. Questo è il suono giusto per la vostra mattina, per il vostro risveglio, per affrontare una nuova settimana. Puntata numero 11 di lunedì 17 settembre. Se state ascoltando nella diretta, buona mattinata. state ascoltando in altri orari del giorno, grazie a RadioRockFM.com, comunque buona giornata. Abbiamo iniziato da una Milano molto piovosa, facendo in maniera molto provinciale, dando i consigli agli ascoltatori milanesi, insomma, di prendere l'ombrello, vestirsi un po' di più. Pensavamo di fare cosa gradita, effettivamente abbiamo fatto il classico scivolone sulla radio provincialotta, come siamo d'altra parte, perché non da tutte le parti sta piovendo. A volte non pensiamo al macrocosmo delle frequenze di Rock FM. Per info weather, e per questo ringraziamo voi appunto per informazioni sul tempo, nelle piangenti colline e valli polceverasche ha smesso di piovere alle 7 spaccate, siete la luce del giorno, grazie. Qui a Genova è passato un monsone, buongiorno scoppiati, il lavascale scazzato, presente anche oggi. Ma saluto anche Leo che commenta: ma le donne falegname come se la cavano con le seghe? Leo, guarda, veramente fuori dai nostri radioascoltatori, per oggi sta in castigo nell'angolino. Battutaccia terribile, chiedo scusa all'amica fiorentina, però ognuno ha i radioascoltatori che si merita. Tanta la carne da gettare il fuoco anche quest'oggi, il buon Freak è di là in redazione con le sue carte cartacee, ci mancano ancora i compleanni del giorno, dovremo occuparci delle vostre cartoline postali, forse il ritardatario ritardato, sicuramente un ringraziamento, ne approfitto per ricordare anche la casella di posta elettronica, aria@radiorockfm.com, a Roberto che venerdì ci scriveva consigliandoci una buona sigla per il risveglio alle 8 puntuali dei nostri radioascoltatori. Caro Roberto, sappi che l'hai azzeccata, abbiamo rintracciato il vinile, ringraziando Mox Cristadoro che ce lo ha imprestato, e quindi alle 8 andremo a svegliarvi seguendo il consiglio del nostro radioascoltatore, perché pane, burro e rock and roll, sappiatelo, lo fate più voi che noi, è per questo che vi piace, perché altrimenti farebbe schifo. Hey baby, body rock and roll, Pink Cadillac, The Bus. Spill a fact. We'll honey it ain't. lunedì qualsiasi, quello che viviamo quest'oggi in diretta sulle frequenze di Rock FM, è un lunedì che attanaglia la mente di Roberto Friccantoni, forse a causa del numero, questo 17 che ogni volta che viene nominato vedo nei suoi occhi, insomma, subisce il fascino, il fascino sfortunato del numero 17, perché non la facevo così. Ma sa che anch'io mi stupisco. Come mai? Ma forse per queste protuberanze partenopee. In che senso protuberanze? Ma queste... Lei sta parlando delle nostre origini. Ma no? Sì, tutti per queste sfumature partenopee che aleggiano, certo, nella redazione di Pane, Burro, Rock and Roll. Saranno le nostre origini napoletane che si fanno sentire, Fritz. Ma... può essere. Io mi domando perché sono così legato alla smorfia, ai numeri, perché il 17 e il 13 mi inquietano così tanto? Non lo so, ma tenterei di esorcizzare questo numero parlando dei nati di quest'oggi. Mi sembra un buon modo per esorcizzare il 17. Ma infatti, sono d'accordo con lei, DJ Ariel, anche perché... iniziamo alla grandissima... molto in alto, iniziamo molto sempre in alto. Sempre più in alto, come venga, direbbe il grandissimo Mike, venga qua in cima. Era il 17 settembre del 1944 quando nasceva il più grande alpinista del mondo. Accidenti! Non solo italiano, ma lei dice del mondo. Assolutamente sì. Il grande rullo di tamburi. Taratarataratarata. Squillo di trombe. Pepepepe. Reinhold Messner. Molti lo ritengono il miglior alpinista di sempre. È stato il primo alpinista ad aver scalato tutti gli 8000. Lei quanti 8000 si è fatto, Freak? Io mi sono fatto diversi 8000 nel corso della mia vita, ma di natura varia, ecco. Senta un po', altri record sono legati alla figura del buon Messner. È stato il primo uomo a scalare l'Everest. Accidenti, che impresa! Veramente, senza voluto l'ausilio di ossigeno, e l'ha scalato una prima volta in compagnia. Non contento, se l'è scalato una seconda volta da solo. Ma dai, sì, ma è incredibile. Fino in cima. Ma l'Everest proprio, quello, sì, che volevo quello... scalare io, sì. Le volevo proporre quest'estate di scalare in compagnia. L'hanno già fatto, facendo però, non qualche un record. Apprendo oggi che Messner ha fatto tutto. Sì. Ha scalato tutte le montagne, ha visto tutte le cime. Pertanto non c'è più nulla da fare. Allora io rilancio. Rilancio. Sa come? Dica. Rilancio facendo gli auguri di buon compleanno a Masahiro Chono. Mai sentito. Lo so, perché lei non frequenta il mondo del wrestler, no, professionista. No, giapponese, se infatti fosse, sì, un professionista come me, sì, del wrestler, sì, saprebbe che... del wrestling. Del wrestling, sì. Io sono un wrestler. Sì, dunque, esatto. Lo sport è il wrestling. Bene. Benissimo. Nel 1963 nacque il 17 settembre. Auguri a Masahiro Chono e passiamo a una gran donna, spesso e volentieri ci capitano delle pornodive, noi siamo sempre contenti a festeggiarli. Era il 17 settembre del 1976 quando nasceva Daniela Rush, grandissima pornostar ceca. Poveretta. Povera, però, Perché? Ma avrà avuto, sì, un cane quando si esibiva sul palco. Guardi, le pornostar con i cani non è segnalata, nella notizia non era segnalata. Ma poi mi chiedo, come avrà, sì, fatto a prendere coscienza delle sue forme? Ma in che senso, Frick? Era... è solo una pornostar cieca, non è che... appunto, avesse... essendo non vedente... No, penso... no, c'è stato un piccolo e divertentissimo misunderstanding. Era cieca nel senso di cecoslovacca. Ah, era slovacca. Lei voleva forse il destro, ma... per una battuta, Questa non ci era sfuggita. Sto per farne una era peggiore. Era cecoslovacca. Ma era più slow o più... o più cieca? Probabilmente era più cieca, forse vacca, ha ragione. Vuole farne un'altra? Vuole fare qualche battuta sul fatto che probabilmente non vedesse... Non vedesse assolutamente chiudiamo, un cane. Chiudiamo, non vedevo un cane. Chiudiamo con il compleanno. Io avrei voluto dire non vedevo un cazzo, sì, ma non so se si può dire. Nasceva il 17 settembre del 1994 Taylor Whale, indimenticabile yodler americana. E chiuderei con Friccantoni yodler questo momento compleanni. Questo non è uno yodler. No, lei sta ululando. Lei sta ancora pensando al cane della pornodiva cieca. Ebbene sì, avrei tanto voluto conoscerlo. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will come. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Storia a tenere banco dalle frequenze di Pane, Burro e Rock and Roll. Freak, non nascondiamoci dietro a un dito, è proprio rileggendo la storia che noi affrontiamo giorno dopo giorno la nascita di una nuova giornata. Ma infatti, ed è a volte una storia bizzarra e proprio per questo ancora più interessante. A volte sono accadimenti surreali ed è proprio per questo che la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll ce li sottolinea con l'evidenziatore. Infatti, e ci piace darvene comunicazione. Vorremmo approfittare la strana storia di questo Joshua Eipera, sarebbe, la stavo dicendo, giusto, all'americana, giusto. Norton, che proprio quest'oggi, il 17 settembre, ma del 1859, ebbe un'idea geniale. Ma sì, fece? Mi dica, sono molto curioso. Si svegliò, si fece la barba e si dichiarò imperatore degli Stati Uniti, facendosi chiamare Norton I. Ma che guarda, paese che straordinario! Guarda che uno si sveglia e decide di fare l'imperatore, è una mossa che io apprezzerei. Ma moltissimo, me lo lasci dire, l'America è un paese talmente democratico dove una persona può anche dichiararsi dittatore. 10 punti per la patente di vero rocker di Joshua Norton, una delle figure più leggendarie della San Francisco di fine 800. Pensi che aveva ben 2 cani, sa come li chiamò? Di cui uno non era del porno. No, credo di quella cecoslovacca della porno star. Non c'entra niente. 2 cani di Joshua si chiamavano Scroccone e Lazzaro. Ah! Tra l'altro 2 punti in più per il nome Scroccone. Scroccone, cane. È vero. E lui come girava, per esempio? Mi dica com'era. Ma lei mi dà il destro per ricordarvi che girava sempre agghindato con un elegante uniforme, un'enorme spada e un copricapo vistoso. Una spada. Sì, uno spadone gigante. Ma nel senso... A metà dell'Ottocento. Sì, in realtà sì. Si era autoincoronato imperatore di San Francisco. Ma dai, cioè, ma dai, ma dai. Proprio il 17 settembre ma sa, del 59. Ma sa che io so che Joshua E. Norton, per proseguire la sua traduzione, non si fermò lì. Oltre ad autoincoronarsi imperatore di San Francisco, si proclamerà successivamente imperatore degli Stati Uniti, perché l'appetito viene mangiando. E apprezziamo da pane, burro e rock and roll questa particolare figura, decidendo che anche noi potremmo svegliarci un giorno e decidere, perché no, di essere imperatori. Lei su cosa vorrebbe imperare? Guarda, io ho le idee chiarissime. Sì. Io voglio diventare dittatore di Rock FM. E cosa farebbe di bello? Beh, farei lavorare... Chi? Soltanto quelli che voglio io. Ovvero? Sì, Gravelli, De Rio, Mox, DJ Ariel. Esatto, ci sono già. Vabbè, ma li ho decisi io, tutti io li ho decisi. Quando frega? Per bacco, giovanotto, mi lasci dire. Lei non li ha mai... Mi lasci dire. Erano già prima non di lei. Insista. Padrino, vai con la musica non che è meglio. Non insista. Sì, buono, pigliamo le... Sono io. Faccia Mike. Colpo di scena sul cerchietto, venga sul cerchietto. One morning I woke up and I knew we'll Alle chitarre, Steele al basso, Nash ai tamburellini e l'Ariele alla solo. Carry On! Sono le 7:56, minuti primi. Mi sono messo io alla solo, ma ovviamente anche chiunque di voi là fuori abbia voluto contribuire a questa Carry On, Love is Coming, cantavano Crosby, Stills e Nash. Amore che quotidianamente gettiamo come se piovesse dalle antenne non più polverose, visto che ci piove sopra, di Rock FM, la vostra radio rock preferita, nonché l'unica. Un saluto anche da parte della mucca Camilla, che ci teneva in questa undicesima puntata a far sapere che c'è anche lei. Voi siete i benvenuti. Tempo regio, qualche minuto, perché dobbiamo svegliare il secondo troncone di Radio Ascoltato. Suona male troncone. Seconda tranche, facciamo, di radioascoltatori, i fortunelli che si svegliano alle 8. Li sveglieremo in maniera molto musical quest'oggi, utilizzando Hair, colonna sonora che abbiamo ampiamente sfruttato nella prima stagione della nostra trasmissione, grazie a Let the Sunshine, che spesso e volentieri cantavamo. Intanto voi siete i benvenuti al nostro numero di SMS 335 100 77 77, oppure alla nostra casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com. Perché contattarci? È semplice, perché siamo curiosi di sapere a che gruppo d'ascolto appartenete in primis, e perché vogliamo aggiungere nuovi lavori riferiti a quello che fate voi mentre ascoltate Pane, Burro e Rock and Roll, e poi perché volendo potete partecipare alla nostra azione militare pacifista. La missione si chiama Davide contro Golia e per partecipare basta segnalare la vostra presenza e soprattutto basta segnalare il fatto che gentilmente spargete la voce e avvisate altri esseri umani di qualsiasi razza, di qualsiasi specie e in qualsiasi luogo, avvisandoli che la colazione che dà assuefazione è solo qui, sulle frequenze di Rock FM, e si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. Con questa sviolinata sono riuscito a raggiungere il minutaggio preciso che vi permetterà tra pochi secondi di svegliare i radioascoltatori delle 8. Voi restate lì, perché ovviamente risvegliamo anche voi che siete già svegli. A quest'ora c'è sempre bisogno di essere svegliati, fidatevi, ce n'è sempre di bisogno. Pane, burro e rock and roll. Yeah! La tua colazione rock.